È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto? E ben ritrovati a È tutto perfetto. E grazie al progetto dell'Arci Toscana in collaborazione con Note al Vento, Time to Care, siamo qui a riparlare con la nostra dottoressa Valentina Giovannetti e abbiamo degli ospiti in studio stasera perché parleremo di un argomento molto molto interessante, gruppi a confronto, e vi spiegheremo via via meglio di cosa vogliamo parlare e cosa stiamo a fare qui stasera. Intanto presentiamo gli ospiti. Salutiamo Valentina Giovannetti, la nostra dottoressa psicologa psicoterapeuta. Buonasera a tutti. E ben ritrovato. Poi abbiamo la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Francesca Focardi. Buonasera, grazie dell'invito. E abbiamo due ospiti di eccezione, Salvo. Buonasera, ben trovati a tutti. E Sergio. Buonasera. Bene, allora, che cosa sono questi gruppi a confronto? Ci è venuto in mente, no, di parlare di gruppi terapeutici e gruppi di automutuo aiuto messi a confronto, e vogliamo sapere questa tipologia di gruppi come nasce e a chi si ispira. Non so chi vuole iniziare a parlare. Io inizierei a parlare prima dei gruppi terapeutici e vediamo un attimino come sono nati, come si sono sviluppati. Valentina? Sì, va bene. Allora, i gruppi di terapia nascono, diciamo, come trattamento di psicoterapia, quindi nascono molto in ambito psicoanalitico, e uno dei, diciamo, più famosi psicoanalisti che si è occupato di gruppi è Wilfred Bion, ma non è stato l'unico. Più recentemente, chi ha scritto molto di terapia di gruppo è Irving Yalom, che è famoso anche perché ha scritto, diciamo, best seller, che, diciamo, non soltanto per addetti ai lavori. E personalmente io faccio riferimento, essendomi formata con, diciamo, il mio approccio è quello analitico transazionale, e l'analisi transazionale nasce principalmente come terapia di gruppo. Quindi nella mia formazione proprio sono stata portata fin dalla scuola di specializzazione, fin da subito, no, a poter anche utilizzare lo strumento della terapia di gruppo. E adesso volevo chiedere la stessa cosa a Francesca Focardi: come nascono i gruppi di automutuo aiuto e, diciamo, qual è la loro origine? Allora, i gruppi di autoaiuto, diciamo, non c'è un autore, no, a cui possiamo fare riferimento. Possiamo fare riferimento a degli eventi, nel senso che prima sono nati i gruppi e poi sono gli studiosi, in qualche modo, se ne sono occupati. Il primo gruppo, diciamo il prototipo al quale poi tante esperienze si sono ispirate, è il movimento degli alcolisti anonimi, che nasce nel 1935 negli Stati Uniti, e proprio con la connotazione tipica dell'autoaiuto nacque in modo molto spontaneo, ossia due persone che avevano un problema di dipendenza dall'alcol, Bill e Bob, uno era un medico e un altro era un agente di cambio, si incontrarono e discutendo anche sulla assenza di percorsi terapeutici all'epoca per gli alcolisti, parlarono per una notte e scoprirono che attraverso il dialogo, almeno per quella notte, non erano riusciti a non bere, e quindi da lì poi, diciamo, si misero anche in viaggio, in percorso, e fondarono appunto il movimento di alcolisti anonimi. Da lì poi tantissime esperienze, sia nell'ambito delle dipendenze che nella salute mentale, e oggi anche in tantissimi ambiti, nelle malattie croniche, fisiche, in tutto il mondo. Allora, sono due mondi paralleli che però si intersecano, no? Diciamo un pochino, e cioè, è molto interessante questo confronto stasera, no? Tra di questi due gruppi differenti che però comunque hanno delle caratteristiche comuni che poi vedremo più avanti. Io volevo chiedere al nostro ospite Salvo se che tipo di gruppi hai frequentato, se gruppi di autoaiuto, solo gruppi di autoaiuto o anche gruppi terapeutici? Allora, buonasera, io sono Salvo e sono educatore nella Misericordia di Pisa Lungomonte. Gestisco un po' lo sportello dipendenze e i gruppi di automuto aiuto. Nella mia esperienza, sì, ho fatto gruppi terapeutici, però io porto tantissimo quella che è stata anche la mia esperienza, no? La mia esperienza di vita e di recupero dalla mia tossicodipendenza, che è quello del confronto, dei gruppi di confronto. Un po' tu l'hai visto, Alessandra, come sei venuta più o meno, come ci approcciamo, no? Che noi pratichiamo il classico autoaiuto, però a un certo punto diventa un gruppo di confronto quando si instaura con l'utente un certo tipo di confidenza, un certo tipo di, la chiamo io fratellanza, nel gergo francescano, da cui mi ispiro anche tra l'altro, e allora si tratta appunto l'utente come un fratello, no? Come qualsiasi persona di famiglia, e lì si parte un confronto dove lo specchio dello stesso utente, che tante volte mostra incoerenza, mostra fragilità, no? Verso la vita, verso fatto proprio perché l'ha portato a bussare alla porta di un gruppo di autoaiuto, le si mette di fronte a quello che è lui in realtà, no? Cercando di fare un passo avanti a lui, anche per noi stessi, di ricordarci sempre da dove veniamo. E tu Sergio, vorresti dirci un pochino che tipo di esperienza hai, se hai esperienza di gruppi in generale? Sì, ho avuto esperienza di gruppi terapeutici, ma generali, su più che altro concentrati sul quotidiano, su condivisione fra le persone, più sullo stress, sullo stigma, queste cose qui, ma non saprei dire tanto altro che. L'ho vissuto anche da fuori il gruppo e ho visto persone che andavano in gruppo e che vedevo una differenza quando uscivano dal gruppo, nel senso che dopo anni di gruppo terapeutici, gruppi terapeutici, vedevo una differenza nella loro vita quotidiana, come comportavano, come comunicavano e queste cose. Penso che è una cosa molto utile. Fra l'altro potrei dire che mi ha aiutato tantissimo anche a me, però non saprei quantificare, non saprei spiegare come, non lo so. Ho problemi No, della lingua, quella non mi va aiuta bene, ma ti nemmeno. sei spiegato bene, cioè sei stato chiaro comunque. Grazie Sergio. E adesso io direi di andare in una piccola pausa musicale, passiamo la parola alla regia Peppe Saverino. Ritrovati a È tutto perfetto, siamo qui a parlare di gruppi a confronto, gruppi terapeutici e gruppi di autoaiuto. Abbiamo le nostre dottoresse Valentina Giovannetti e Francesca Focardi e i nostri ospiti Salvo e Sergio. E adesso avrei un'altra domanda, faccio prima a Valentina, quali sono le modalità terapeutiche dei gruppi terapeutici? Gioco di parole. Allora, i gruppi terapeutici, diciamo dove c'è quindi un conduttore che è lo psicoterapeuta, in genere sono piccoli gruppi, si va da un minimo di 4-5 persone, iniziano anche con 3 all'inizio, e un massimo, per esempio io più di 8 persone non le inserisco, c'è chi anche fa 10-12 persone, dipende un po' dall'approccio. E diciamo in questi gruppi di terapia sono misti, nel senso che non sono strutturati, non accolgono persone che hanno soltanto un tipo di problema, no? Come può essere per esempio il gruppo degli alcolisti anonimi, ma appunto ci sono vari tipi di problematiche. Che possono essere disturbi di ansia, disturbi depressivi, disturbi di personalità. E proprio questo, il fatto di avere, diciamo, questa eterogeneità è uno dei punti, diciamo, di forza anche del gruppo di terapia, perché il focus, diciamo, è più su, diciamo, non tanto il contenuto quanto il processo, cioè ci si focalizza sulle dinamiche interpersonali, no? Che si sviluppano, sulle proiezioni che i partecipanti operano, no? Sul terapeuta, sugli altri membri del gruppo, e quindi, diciamo, si va anche a analizzare le dinamiche che ci sono, perché queste dinamiche spesso sono quelle, no? Cioè il gruppo di terapia è visto come un microcosmo che in qualche modo rappresenta ciò che anche accade fuori, no? Quindi le dinamiche che si sviluppano dentro un gruppo ci dicono anche di come la persona si relaziona fuori negli altri gruppi. E diciamo, l'idea che sta alla base, almeno per quanto riguarda l'analisi transazionale, è che, come diceva Eric Berne, noi ci ammaliamo nei gruppi e guariamo nei gruppi, perché il primo gruppo che incontriamo è la famiglia, per esempio. Noi siamo animali sociali, quindi a volte la dimensione della psicoterapia individuale può essere limitante in questo senso, perché lavoriamo su alcuni aspetti, ma io vedo che a volte è un limite, quindi quando mi accorgo, no, che la persona ha può aver beneficio, no, di un confronto allargato, quindi non solo col terapeuta ma anche con altre persone, la propongo, e in genere ci sono sempre delle resistenze all'inizio, no? Perché ma come, io devo parlare con degli estranei, no? Poi però spiegandolo e chiarendo quelli che possono essere i benefici di un trattamento di gruppo, poi diciamo le resistenze vengono in genere vinte e si inizia un percorso che poi ha il suo sviluppo. Interessante questa cosa, no? Come le persone effettivamente in primo momento possono risultare un po' restie, un po', no, titubanti nell'approccio della terapia di gruppo, e poi invece magari si rivela la scelta vincente, poi magari non in tutti i casi, però in tanti casi è così. Volevo fare la stessa domanda a Francesca Focardi per quanto riguarda i gruppi di autoaiuto. Quali sono le modalità, diciamo, terapeutiche del gruppo di autoaiuto? Sì, intanto diciamo, per chiarezza non parlerei di terapeuticità, proprio perché i gruppi di autoaiuto nascono spontaneamente, sono costituiti da alla pari tra di loro, quindi è assente una figura professionale, uno psicoterapeuta, uno psicologo, un operatore, un educatore. Quindi si parte da una condizione paritaria. A differenza dei gruppi terapeutici, o almeno quelli che menzionava la dottoressa, sono gruppi molto specifici, quindi la omogeneità della partecipazione è un elemento fondamentale, proprio perché si basano sull'identificazione e la condivisione di un'esperienza specifica di dolore e sono orientati a un lavoro sul quotidiano, sulla condivisione delle difficoltà nell'oggi, quindi non si lavora su livelli di relazionalità o su un lavoro introspettivo dell'origine di quelli che sono stati i nostri dolori interpersonali. Quindi sono anche gruppi molto pratici, ci si aiuta, la solidarietà, la mutualità è una regola del gruppo e c'è un'autoregolazione in quanto ci sono due elementi fondamentali che garantiscono il totale rispetto ed una specie di autodisciplina tra le persone. Prima di tutto che si parla sempre in prima persona. Secondo, che non si danno mai giudizi e consigli. Quindi ogni partecipante parla in prima persona e racconta la propria esperienza. Poi passa l'altra persona, non c'è un lavoro di interazioni tra le persone, c'è un lavoro di condivisione. Queste due regole garantiscono una sorta di autoregolazione tra le persone. Esatto, e infatti c'è proprio la differenza fondamentale, no? Mi sembra di capire fra i due tipi di gruppi è proprio questa, cioè soprattutto cioè, non c'è un approccio terapeutico perché comunque c'è una condivisione di persone alla pari che cioè, condividono diciamo, lo stesso problema, invece mi sembra di capire che nei gruppi terapeutici possono essere persone che hanno anche differenti tipologie di problemi. È così, Valentina? Non lo so se ho capito bene. Allora sì, in genere sì, i gruppi che vengono fatti diciamo in forma diciamo privata o comunque ambulatoriale, sì. Poi ci sono altre esperienze, per esempio, che derivano più dal mondo cognitivista, e magari questi sono anche gruppi che vengono fatti in trattamenti anche più strutturati o addirittura comunità residenziali, dove per esempio si lavora su un tipo, no? Quindi può essere, che so, sono famosi i gruppi della terapia dialettico-comportamentale, che proprio sono dedicate a persone che hanno disturbo borderline di personalità, no? Quindi lì c'è una omogeneità diciamo, di condizione clinica. E sono diciamo casi particolari. Altri, diciamo, in genere, però, nella terapia di gruppo, sì, l'eterogeneità è uno dei punti di forza. E per quanto riguarda invece l'aspetto delle regole, no, che è stato menzionato, diciamo, le regole sono più imposte dal terapeuta, no? Che sono regole che servono a garantire la sicurezza del gruppo, la protezione. Quindi una delle regole, per esempio, è che tutto quello di cui si parla nei gruppi deve rimanere nel gruppo. Quindi il terapeuta ha il segreto professionale, ma in qualche modo i partecipanti devono prendersi questa responsabilità, per esempio. I gruppi, inoltre, cioè non si saltano le sedute, se si saltano si pagano ugualmente, per esempio, no? in ambito privato, ovviamente, perché anche questo, il gruppo poi diventa un luogo intimo e quindi le persone, per sentirsi protette, al sicuro, no? E quindi che comunque quando arrivano al gruppo le persone sono sempre le stesse, no? Non ci sono persone che vanno e vengono così come, non so, a piacimento. Questa è una delle forme di protezione che permette poi quella che è la coesione di gruppo, che è uno dei fattori terapeutici. E quando il gruppo inizia a sentire una coesione, un senso di appartenenza, inizia anche a lavorare a un livello più profondo, e quindi di fiducia di base, no? di capacità di sviluppare un'intimità con gli altri, no? Di mettersi quindi a nudo, condividere anche esperienze molto private e molto dolorose, a volte che magari non hanno mai raccontato a nessuno, no? Quindi emergono nel gruppo, con il gruppo che fa da cassa di risonanza, no? Quando c'è questa coesione, un clima di accoglienza e di non giudizio, che non è posto come regola iniziale, però diciamo il terapeuta, il conduttore, cerca di stimolarlo e quindi di far riflettere, no? Far emergere quando per esempio ci sono dinamiche di giudizio, perché ci sono, di cosa parlano, eccetera. È interessante questa cosa, perché comunque mentre tu parlavi mi risuonava, no? Come eco, un po' delle norme che hai elencato, cioè sono comuni alcune ai gruppi di autoaiuto, come per esempio il fatto di non giudicare, di non dover giudicare gli altri e non giudicare nemmeno se stessi più di tanto, e poi anche la cosa che hai sottolineato molto interessante del segreto, no? Di quello che si dice all'interno del gruppo, che rimane all'interno del gruppo. Questo vale anche per i gruppi di autoaiuto, è una delle regole fondamentali proprio, cioè si crea questa coesione, questa forza, no? Fra i membri del gruppo, di questo tacito accordo, perché poi le regole vanno ribadite tutte le volte che arriva un membro nuovo, però c'è questo accordo comunque fra le persone che le cose dette nel gruppo rimangono all'interno del gruppo. La differenza forse fondamentale sta nella gratuiticità, no? dei gruppi di autoaiuto rispetto ai gruppi terapeutici, giustamente perché il gruppo terapeutico viene condotto da uno specialista e quindi è giusto che sia così. Volevo chiedere a Francesca se c'erano altri aspetti che voleva mettere in evidenza per quanto riguarda le regole del gruppi di autoaiuto. Sì, la segretezza, come dicevi Alessandra, un po' anche Alcolisti Anonimi per la loro proprio anche nome, no? Definizione, nell'anonimato c'è anche questo pieno rispetto della propria esperienza, della propria estrazione sociale, culturale, no? L'unico elemento in comune deve essere la problematica che viene trattata all'interno del gruppo. Ecco, una peculiarità è la mutualità, ossia il lavoro all'interno dei gruppi non si svolge soltanto in quell'ora e mezzo settimanale, ma una delle regole è proprio che le persone possano aiutarsi fuori anche da quell'ora e mezzo, no? Quindi se c'è un membro che ha delle difficoltà si può decidere di svolgere il gruppo addirittura a casa, si può intervenire se una persona è in difficoltà andandola a trovare, fino anche a aiuti più materiali, se una persona sta male si aiuta a portare, penso per esempio ai gruppi che affrontano malattie fisiche, no? Storici erano i gruppi per esempio sull'AIDS, dove magari i ragazzi che venivano ricoverati facevano sì che i membri del gruppo andassero per esempio a gestire la casa, gli animali, le piante, no? Quindi è, come dicevo, un lavoro anche basato sul concreto, sulla solidarietà. La mutualità è proprio una delle regole che credo nei gruppi terapeutici non sia contemplata al di fuori, anzi forse insomma limitata o è molto limitata, no? Però questo ce lo dice la collega se è così. Allora, sì, nel gruppo di terapia, poi questo penso dipenda anche un po' dall'approccio e dal clinico. Per quanto mi riguarda, non c'è il divieto a vedersi fuori tra i pazienti che partecipano. Questo io lo chiarisco all'inizio, no? All'inizio di un gruppo oppure quando inserisco una nuova persona, che ci si può vedere fuori, l'importante è riportarlo nel gruppo, no? Proprio, perché non si creino sottogruppi, o meglio, se si creano, però. Come dire, poi se ne parla nel gruppo e quello che accade, no, se ci sono dinamiche, poi vengono esplicitate, perché di nuovo, no, il focus è proprio su quello che si chiama il processo, del gruppo, più che sui contenuti, no? Quindi tutti quei movimenti relazionali, no? Quel filo rosso che diciamo unisce poi le persone, unisce ciascuna sessione di gruppo, no? Quella trama più implicita che diciamo attinge anche al nostro inconscio, perché attraverso l'interazione di gruppo poi può essere esplicitata. Bene, io ora scusatemi tanto, però devo dare la parola alla regia Peppe Saverino perché altrimenti mi picchiano. She came down from Chicago where the mighty winds blow. She was a picture in a frame. And she said, I gotta hit the highway. Are you going my way? But she didn't say her name. And I said, well, I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come and sing a little melody? And I've been waiting for a partner in crime. We'll split every dollar and share every dime. Won't you come and sing a little harmony? Through Colorado and on to the next show. We were dancing in the street. It didn't matter where we were. As long as we're together, we could always feel the beat. Cause I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come and sing a little melody? And I've been waiting for a partner in crime. Split every dollar and share every dime. Won't you come and sing a little harmony? San Francisco, and it felt just like home, and we didn't want to leave. But we got back on the road, and we were following the coast to see what we could see. I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come and sing a little melody? And I've been waiting for a partner in crime. Split every dollar and share every dime. Won't you come and sing a little harmony? And I've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me. Won't you come and sing a little melody? And I've been waiting for a partner in crime. Split every dollar and share every dime. Won't you come and sing a little harmony? Ritrovati a È tutto perfetto. Siamo qui a parlare di gruppi a confronto, gruppi terapeutici e gruppi di autoaiuto con la dottoressa Valentina Giovannetti e la dottoressa Francesca Focardi. E in studio con noi ci sono anche gli ospiti Sergio e Salvo. E io sono Alessandra Gargiulo di Mente in Mente e stavamo parlando proprio delle regole, no, che diciamo delle regole tra virgolette che ci sono all'interno dei gruppi, no? Sia di autoaiuto che dei gruppi terapeutici. E stavamo proprio facendo un confronto fra i due gruppi e cercando di capire quali sono le cose che le accomunano e quali sono le cose che invece le differenziano. Volevo fare parlare Salvo, che è il nostro ospite. Volevo sapere da Salvo se, diciamo, con quale regole ti sei trovato più in difficoltà all'interno dei gruppi a cui hai partecipato. Sì, allora, diciamo che dal 91 ormai che faccio gruppi di autoaiuto, diciamo che 30 anni che ormai mi trovo sempre nella veste di conduttore, no? Però voglio sottolineare una cosa, no? Dell'importanza di queste regole. Nei vari gruppi di autoaiuto che solco, no? Che ho solcato, io ho visto che quelli che hanno più risultati e quelli che vanno avanti, no? Quindi anche senza il conduttore, che poi passa la mano a chi veramente ha recepito il discorso e vuole migliorare se stesso e vuole migliorare lo stesso gruppo, sono quelli che le regole piano piano se le fanno da sole, no? Ad esempio, avevo questo gruppo in Sardegna che è iniziato ovviamente con le regole di base, no? Il classico gruppo dato aiuto, dove c'era il facilitatore, la regola che doveva parlare una volta, che dovevano parlare, non si doveva parlare fuori, insomma, tutte le regole di base. Piano piano sono state introdotte da loro stessi le regole, no? Quindi è stata quella che uno doveva lanciare un argomento, mentre prima col tempo questo è avvenuto, e ti parlo di un lasso di tempo di 4 anni e mezzo, forse 5 anche, che piano piano questo gruppo è nato da 10 persone, è arrivato anche a 15, a 16, poi anche spezzato per tanti che venivano, no? Sei arrivato anche a 20, quindi spezzando questo gruppo, e ognuno riusciva a fare il conduttore col periodo maturato appunto all'interno di questo gruppo, no? Dove piano piano queste regole sono venute un po' alla volta, no? Come ripeto, è stata quella prima di iniziare a creare un argomento fisso, che fosse, un esempio faccio, la disponibilità, no? Il richiedersi da noi stessi sempre quando una giornata inizia male, no? E sviluppare un argomento del genere. Poi piano piano all'introdurre i 5 minuti di pausa per una sigaretta, per mangiare un qualcosa, il fatto di togliere il telefonino, ecco, ognuno doveva togliere il telefonino, lasciarlo lì. Insomma, sono queste regole che piano piano sono da 5-6, che erano quelle di base, sono venute 15-16 alla fine. È stato anche questa una bella soddisfazione. Ho visto che è un gruppo che a tuttora, a distanza di 10 anni adesso che le sento, continuano ad andare avanti, continuano anche piano piano a emergere sempre nuove regole, a portare questo tipologia di gruppo, insomma, che è quello che mi ha dato più soddisfazione. Bella questa cosa delle regole che si fanno via via, strada facendo, no? Perché anche noi nel nostro gruppo stiamo iniziando a proporre degli argomenti che inizialmente li proponevo sempre io, poi durante le settimane magari stimolo anche il gruppo e dico: vabbè, questa settimana io sono troppo stanca, sono troppo affaticata, non ce la faccio, allora vi do il compito, qualcuno di voi deve pensare a qualcosa di cui parlare poi mercoledì, e quindi magari si attivano le persone a proporre un argomento, si fa il classico giro di rito per capire come è andata la settimana, come ti senti, e poi quando si sono esauriti gli argomenti di ognuno si fa questo giro su un argomento comune scelto da qualcuno del gruppo, che può essere per esempio: qual è per te il concetto della felicità, che cosa, come cerchi di superare momenti difficili, insomma, possono essere vari gli argomenti di cui le persone scelgono di voler parlare. E questo è un esperimento molto molto interessante, no? All'interno dei gruppi, secondo me. Non lo so, cosa ne pensi, Francesca? Sì, è chiaro che c'è una grande eterogeneità, cioè al di là delle regole base di cui abbiamo già parlato, in realtà ogni gruppo poi sviluppa un sistema di micro regole che sono spesso lo specchio del problema trattato. Per esempio, nei gruppi dove si affrontano le dipendenze, contare il giorno di sobrietà, il giorno di astinenza è una regola peculiare di quei gruppi, perché contare i giorni di sobrietà rinforza il proprio percorso. Ci sono gruppi, per esempio, non so, penso ai diabetici, che a un certo punto hanno deciso di fare l'opposto. Vogliamo un gruppo con il minor numero di regole, perché nella nostra vita ci sono tante regole, no? Quindi diciamo che ogni esperienza, anche esperienze diverse che trattano lo stesso problema, magari all'interno del gruppo troviamo regole diverse, purché siano condivise da tutti, no? Purché ci sia una condivisione paritaria della regola. Certo, quella è la prima cosa. Valentina, vorrei aggiungere qualcosa per quanto riguarda i gruppi terapeutici? Allora, sì, no, stavo riflettendo, no, su questo aspetto delle regole che il gruppo si dà, no? In qualche modo, immagino siano anche il frutto di una contrattazione, no? All'interno di un gruppo, quindi anche poi di uno scambio, diciamo, a volte magari anche un po' conflittuale, mi immagino possa accadere, no? Quindi può succedere, sì. No, e stavo cercando quindi di riflettere, no? Rispetto al gruppo invece di terapia, e come se accade questa cosa, in qualche modo accade anche, no? Nel gruppo di terapia che vengono date in qualche modo, il gruppo inizia a darsi delle regole, diciamo che non sono quelle base, no? Che dà il terapeuta, ma sono regole, non so, per esempio all'inizio ognuno si va sempre a sedere nel suo posto, no? Quindi in genere sono regole implicite. E si osserva che quando, diciamo, il gruppo entra in una fase più intima, più no, quindi dove iniziano anche a calare le varie maschere, le persone si danno anche il permesso di cambiare posto, no? Per cui se io arrivo e mi siedo dove si era seduta l'altra persona, un'altra persona una volta prima, è accettato, no? Quindi queste regole in qualche modo cambiano in maniera, diciamo, più implicita, e semmai è, diciamo, l'occhio, no? Dell'osservatore, del terapeuta, che osserva e poi magari può anche buttar là la palla e dire: ma ho osservato questa cosa, ma cosa sta accadendo, no? E diventa lo stimolo di una, diciamo, riflessione e che poi porta appunto le persone, no? Partendo anche da uno stimolo così apparentemente banale, le persone magari iniziano a parlare di sé, di che cosa gli richiama, no? Lo spostamento del posto, eccetera, e da lì si parte, no? Quindi ogni sessione di gruppo è come dire, non è programmabile e non è programmata, ma proprio si parte da questa osservazione iniziale, ok, cosa sta accadendo, no? Si cerca di condividere e di far crescere in qualche modo la condivisione. Sì, infatti, sono, diciamo che è sempre molto interessante osservare il gruppo come si comporta, no? Cioè, ogni volta che ci si rivede succedono delle dinamiche, accadono delle dinamiche differenti, che sono sempre, diciamo, degli spunti di riflessione molto, molto grandi. E volevo chiedere a Sergio. Sergio, noi ci siamo conosciuti che sei venuto al gruppo di autoaiuto a Pisa da noi, sei stato il nostro ospite, e volevo sapere cosa ti è sembrato il gruppo di autoaiuto, perché so che tu, diciamo, hai come progetto per il futuro quello di creare un gruppo, diciamo, dove tu sei il facilitatore e quindi, diciamo, agevoli le conversazioni all'interno del tuo gruppo. E, come ti è sembrato il gruppo al quale hai partecipato e che stimolo ti ha dato, ecco? Ma vorrei dire che sono abituato con i gruppi online tramite scrittura, praticamente senza vedere, senza parlare, quelli stile vecchio di vecchi tempi, da anni 2000 poco. Qui in Italia, Sergio? No, da Albania anche, ma era internazionale, parlavano tutti in inglese, così ho imparato anche l'inglese, anche perché non sapevo nemmeno la lingua. Poi ho capito che la condivisione fa una differenza, ti aiuta a confrontare con se stessi. Quando sono arrivato al vostro gruppo, ho visto, non lo so, una cosa abbastanza diversa da quello, ma più che altro un'apertura, una sincerità, un modo di esprimere in un modo che non avevo visto nella vita reale, nella vita quotidiana, perché è difficile da trovare persone che si mettono insieme e aprono il cuore davanti a te. Questa cosa mi mancava e mi ha spinto fortemente in avanti. Da quel tempo, anzi un giorno dopo, due giorni dopo, mi sono aperto al mondo praticamente. Ho messo il mio vero nome su internet, il mio compleanno vero su internet, ho messo tutto, la mia faccia internet per prima volta, cose che non li facevo prima perché non avevo il coraggio di affrontare il mondo, di affrontare la vita, di affrontare me stesso più che altro. Mi ha dato un po' di speranza, un po' di, come si dice, un po' di coraggio, sì, non un po', abbastanza, direi tanto, di confrontare me stesso, di affrontare le cose che mi fanno stare male anche, ma anche le cose che mi fanno stare bene, per capire come gestirli meglio, come tenerli a questo posto, in questo modo che sono. Quindi mi ha aiutato tantissimo. Immagino che per te stasera questa conversazione qui, diciamo, è molto stimolante, no, Sergio? Sì. È anche una formazione per il futuro, praticamente, però più che altro la prendo personalmente sempre, la prendo perché è sempre la regola di matematica che diceva John Nash, un matematico famoso, che diceva che prima devi pensare per te stesso e poi il gruppo. E poi il resto, i gruppi più grandi, e così va a scalare. E quindi se non puoi aiutare te stesso, non puoi aiutare altri. E quindi la prendo personalmente, è come una responsabilità mia per me stesso prima e poi per gli altri. Essendo che anche una persona che ho problemi con le emozioni, che non li sento spesso, non sento emozioni forti, che è parte della mia malessere, essendo in una situazione dove sento emozioni e le persone comunicano emozioni, per me mi dà vita, è una cosa che mi aiuta tantissimo anche con me stesso, anche capire il mondo che mi circonda un po'. È una bellissima cosa. Sono molto belle le cose che hai detto, Sergio, molto interessanti, molto profonde anche. Grazie. E ti ringrazio davvero tanto. Adesso si va in pausa musicale, la parola a Peppe Saverin. Gratitudine, siamo gratitudine. male, quella di un bambino invincibile. Siamo noi l'origine della neve, quando scoppia dentro una gran tempesta. Siamo gratitudine, siamo gratitudine. Il muro che abbatteremo, l'ultima frontiera di falsità. Siamo la caduta che non fa male, quella di un bambino invincibile. Siamo noi l'origine della neve, quando scoppia dentro una gran tempesta. Siamo gratitudine, siamo gratitudine. Eccoci qui, è tutto perfetto. Stiamo parlando di gruppi a confronto, gruppi di autoaiuto e gruppi terapeutici con la dottoressa Valentina Giovannetti, la dottoressa Francesca Focardi e i nostri ospiti Sergio e Salvo. E siamo rientrati e abbiamo sentito le bellissime parole di Sergio e volevo lasciare la parola a chi aveva qualcosa da aggiungere o da dire, qualche riflessione da fare. Sì, volevo ringraziare anch'io Sergio per la sua, diciamo, condivisione, e diciamo, ha toccato un punto molto importante, no? Quello appunto finalmente, no? In questi contesti, indipendentemente poi dalla forma, che sia il gruppo di terapia o l'autoaiuto, come dire, si entra in contatto con gli altri in maniera diversa e questo ci permette quindi di risvegliare anche delle parti che erano rimaste, diciamo, chiuse, sigillate per paura, no? Perché magari venendo da esperienze che l'avevano fatte rinchiudere, ecco, delle parti di sé. E questa è una cosa che riscontro molto nei gruppi di terapia che conduco, insomma, da quello che le persone dicono, no? Della loro esperienza nel gruppo. E tante persone dicono che nei gruppi riescono a veramente esprimere qualcosa che fuori dal gruppo è difficile. E credo che questo sia un po' anche connesso alla atomizzazione della nostra società, dove è veramente difficile trovare degli spazi di una condivisione sana, autentica. Un po' è questo. E quindi poi la domanda che mi faccio è, ok, perché a volte ho un po' l'impressione anche che nel gruppo di terapia, cioè, rischi un po' di diventare, come dire, noi siamo, come dire, un'oasi protetta, e questo fa parte delle dinamiche di gruppo, no? Noi siamo, come dire, qua è tutto bello e fuori è brutto, no? E quindi qui poi ovviamente anche il compito del terapeuta cercare, no, di mediare un pochino, perché poi l'obiettivo non è quello di restare a vita in un gruppo di terapia, ma è poi di prendere il proprio, diciamo, la propria strada e la propria autonomia, no? Però ecco, quella fase, anche a volte, che può anche durare qualche anno, no? Quelle persone proprio dicono, oh, finalmente ho trovato un posto dove mi posso esprimere, posso entrare in conflitto con gli altri in una maniera sana, e quindi fanno esperienza di questo, e quindi penso sia anche importante, come dire, un po' adagiarsi in questa dimensione per costruire degli strumenti da poi utilizzare fuori. No, il concetto è infatti fondamentale, penso che sia comune ai gruppi, ai due tipi di gruppo, è quello di non sentirsi giudicati, no, dagli altri. cioè la cosa che ti fa stare bene all'interno del gruppo, è quello che non ti senti giudicato e quindi sei padrone di essere te stesso, fondamentalmente. Salvo, tu volevi dirci qualcosa? Questo di non sentirsi giudicato per determinati tipi di gruppo, dove sia per lavoro né mi tocca partecipare, purtroppo non è sempre così, no? Perché è vero che la maggior parte delle volte, ed è bello questo, no? Perché il gruppo aiuta, no? Aiuta a far capire, come diceva la dottoressa, nel mondo che va avanti, attraversato da maree di consumismo, di materialismo, e non ha tempo né spazio per discorsi profondi, no? Quindi tutti nel gruppo ritrovano o provano a vedere che c'è un mondo diverso da quello che fuori, magari la maggior parte, sto parlando quasi tutti i tossici, alcolisti, che hanno fatto dopo anni e anni di vita di strada, si ritrovano buttati in un gruppo a sentire persone che parlano di cose profonde, di cose d'animo, di cose che sentiamo dentro, no? Quindi l'inizio di tutti è: questo è matto, questo è scemo. Però piano piano, facendoli uscire per come sono, uno si riscopre e tende a migliorarsi. Però purtroppo questo è difficile, no? Questo lo dico per esperienza, perché lo vivo tutti i giorni, no? Le persone hanno bisogno di tempo e devono essere molto predisposte a un certo tipo di dialogo in un gruppo, o perlomeno a partecipare ad un gruppo, perché molte vanno via proprio perché si sentono giudicate. Perché tante volte, per determinati tipi di gruppo, soprattutto quelli mirati alla dipendenza, le persone vengono da un mondo marcio, no? Quindi hanno bisogno di pulizia, e la pulizia come la tiri? Facendoli vedere quanto uno è brutto dentro, no? Un po' come è stato fatto anche come all'inizio, a me quando mi dicevano che sono permaloso, che sono presuntuoso, io dovevo mettere in discussione tutta la mia vita, tutto quello che erano le mie cose sino ai 23 anni, da quando io ho iniziato un percorso in comunità. Dicevo: ma voi siete scemi. Poi piano piano, però, grazie al giudizio degli altri, no? Che però il giudizio è dato anche per amore, quindi non detto solo da una persona, ma da una diciamo da diverse persone, no? Che erano un gruppo abbastanza unito, facevano da bastone e carota. Io questo l'ho capito, no? E purtroppo mi trovo da solo tante volte, questa è una mia difficoltà, a fronteggiare anche di queste persone che magari in un gruppo, una, due, tre volte, che sentono il confronto e lo fanno per mettersi in discussione, no? Proprio per iniziare a mettere in mano quelli che sono i propri problemi che li hanno portati a fare determinate scelte, che li hanno portati alla dipendenza, prendono al volo il fatto che no, vengo giudicato, quindi nel gruppo io non ci sto. E questo è brutto, no? E questo non si addice a quello che dovrebbe essere un gruppo, però purtroppo succede, no? In determinati tipi di gruppi succede, ripeto, lo vivo tutti i giorni. Certo. Ed è importante, soprattutto nei gruppi, per quello, cercare di creare una connessione tra almeno 4-5 persone, dove ci si capisce al volo, no? Dove non arriva uno, arriva l'altro, e magari uno esce dal gruppo, però c'è subito l'altro pronto a prenderlo come esce. E infatti dicevo, i piccoli gruppi magari, cioè, più facilmente funzionano meglio, no? I piccoli gruppi rispetto ai gruppi molto numerosi. E anche i gruppi di autoaiuto, come i gruppi terapeutici, si è detto, cioè, di solito il numero ideale, cioè, massimo 8-10 persone, è già un bel gruppone. Io mi sono trovata a condurre a volte un gruppo anche di 15-20 persone, però eravamo in due a condurre il gruppo, eravamo due facilitatori, quindi c'era bisogno dell'aiuto, sinceramente, perché dove non arrivavo io arrivava l'altra persona e viceversa, e riuscivamo a gestire un gruppo così numeroso. Però i gruppi funzionano meglio quando sono più contenuti, secondo me, vero Francesca? Sì, assolutamente, funzionano meglio e c'è più spazio anche, no? Naturalmente, per ogni partecipante. Sì, ringrazio anche Sergio, mi faceva fare questa riflessione, no? Che è vero che si può costruire un po' una distonia tra l'esperienza umana emotiva all'interno del gruppo e la realtà circostante, no? Che forse oggi più che mai non aiuta nell'espressione delle emozioni, della relazionalità. Una opportunità che ci può essere in un'esperienza di autoaiuto e che, un po' come accennava Sergio, può accadere che a un certo punto una persona che ha fatto un percorso, ha ottenuto dei risultati, ha elaborato delle cose, desideri di restituire la sua esperienza di autoaiuto aprendo una nuova esperienza, no? Mettendosi al servizio degli altri. E questo forse può essere un modo per trasformare, no, se stessi, e un po' anche è nella cultura dell'autoaiuto la gemmazione di tante esperienze che poi nel loro complesso possono fare anche la differenza culturale, no, tra chi in qualche modo ha una visione anche più assistenzialistica e vuole le cose vadano in un certo modo nel mondo e che siano risolte dagli altri, e una cultura che invece impone un assumersi delle responsabilità, no? Questo vuol dire creare un po' come un'onda del benessere, no? All'interno del gruppo, con gli altri partecipanti e poi fuori dal gruppo, perché io credo vale per tutti noi: quando stiamo bene forse riusciamo anche a far stare un po' meglio gli altri. Qualsiasi strumento poi, che sia il gruppo di terapia, il gruppo di autoaiuto, credo che, diciamo, l'elemento comune sia il miglioramento delle qualità e dei valori che ci sono nelle relazioni tra gli esseri umani. Giustissimo, mi è piaciuta tantissimo questa affermazione, degli interventi veramente molto interessanti, molto calzanti, e da ogni piccolo dialogo è venuto fuori una riflessione veramente molto profonda su ognuno di noi. Volevo chiedere se c'era qualcun altro che voleva dire qualche altra cosa ancora, e se altrimenti si va in chiusura. Sì, mi veniva in mente, diciamo, la citazione di una che ovviamente faccio a memoria, quindi non è precisa, che mi è venuta in mente dalle parole di Francesca e della psicanalista Silvia Corbelli, che lei ha scritto tanto sui gruppi di terapia, e che dice appunto, parla del microcosmo, del gruppo di terapia come microcosmo, e del fatto che in qualche modo i gruppi di terapia hanno anche una funzione sociale, nel senso che quello che viene elaborato e le trasformazioni che vengono fatte all'interno, diciamo, quindi questo microcosmo sociale, poi possono essere portate anche fuori. E quindi lei li vede come un segnale di speranza, come dire, certo che non rivoluzioneremo, diciamo, la società, però ecco, sono dei segni, no? Che le persone poi che fanno queste esperienze, vivere un altro tipo di socialità, un altro tipo di stare insieme, possono poi portare fuori nei loro contesti familiari, lavorativi, di vita. E quindi ecco, volevo aggiungere questo segnale di speranza che mi sembra che sia emerso anche da questa discussione di gruppo, appunto. Bene, io volevo fare una domanda a tutti i partecipanti della trasmissione di stasera, e volevo chiedere, partiamo da Sergio, cosa, cioè, come ti fa sentire il gruppo? Mi fa sentire più sicuro, mi fa sentire più pronto di aprirmi, mi fa sentire più, non lo so spiegare in italiano, però è il sentimento dove sei praticamente allo stesso tempo, sei se stesso e allo stesso tempo sei anonimo, in fronte dei estranei, specialmente la prima volta, e poi piano piano diventa una famiglia, e questo cresce dentro di te e cresce dentro il gruppo anche. Così crei un collegamento fra queste persone che dopo la porti anche da fuori, la porti in senso che quando vai a incontrare un'altra persona capisci come si crea un collegamento fra le persone, come si crea un'amicizia, una relazione umana di tutti i generi. Questa cosa penso che è fondamentale per esseri umani, come animali sociali, come avete detto voi, e quindi la trovo molto importante. Bene, Sergio, grazie. Salvo. Allora, anche a me mi fa sentire partecipe continuamente in discussione con me stesso e soprattutto responsabile, no? Responsabile che ovviamente nel gruppo non posso permettermi di lasciare di far emergere i miei problemi, o meglio i miei stati d'animo, no? Perché penso che, un po' come diceva la dottoressa Valentina adesso, da questi gruppi ognuno imposti un po' anche, non rimanga solo relativo al gruppo, no? Tutta questa esperienza, ma ognuno porti il seme del gruppo nella società, nella famiglia. A questo proposito apro sempre, anche in tutti i gruppi, lo propongo sempre, no? Una frase di Padre Eligio, che è il mio ispiratore di vita, che dice che nel mondo molti uomini possono perché hanno, perché sanno e perché decidono. Molti non possono e credono molto. Quando chi può si unirà a chi ama, allora potremo cambiare il mondo. Bene, Salvo, grazie. Bellissime queste parole, le ultime parole che hai pronunciato, veramente toccanti. Si è visto anche che si è sentito anche la tua profonda commozione nel pronunciarle, davvero. E adesso volevo fare la stessa domanda a Francesca Focardi. Ma io posso dire cosa ho imparato all'interno dei gruppi. Ovviamente ho partecipato nella conduzione come membro alla pari, ma spesso anche come un membro che non condivideva l'esperienza delle altre persone, e ho imparato qualcosa che è stato fondamentale poi nella mia pratica professionale. Ho imparato a sviluppare fiducia nelle risorse delle persone, no? Che anche le persone con delle storie, delle esperienze veramente, diciamo, con una capacità residuale anche minima, possono in qualche modo tirar fuori delle risorse che a volte, ecco, magari il professionista nella sua pratica clinica può tendere a sostituirsi. Ho imparato ad avere la fiducia nell'esperienza delle persone e ho imparato anche un pochino di umiltà. E dulcis in fundo, Valentina Giovannetti. Sì, allora, parlo come paziente, perché io ho fatto gruppo di terapia in uno dei miei gruppi di analisi, e devo dire che ho proprio sentito, perché prima ho fatto un percorso di qualche mese in individuale, poi il terapeuta mi ha messo nel gruppo, e al di là della forte ansia iniziale, però poi ho proprio sentito un click, cioè c'è proprio stato uno scatto enorme quando sono entrata nel gruppo, no? Quindi l'esperienza è quella di mettersi molto in gioco, e però ecco, è che poi dopo un po' ci prendi gusto, no? In quel gioco, quindi nel condividere, no? Te stesso e condividere le tue esperienze, no? Con le altre persone, e quindi proprio questo passaggio, no? Questi stare nella, diciamo, nella paura e nell'ansia, oddio, cosa penserà di me questo, se dico questo e quest'altro, ma poi nel confronto pian pianino sentire di sviluppare molta fiducia in se stessi e di, no, iniziare anche a come dire, rispecchiarsi e rispecchiare degli aspetti di te che magari anche pensavi di non avere, perché a volte gli altri ti rimandano delle cose che te dici, ma veramente, sia in positivo che in negativo, però sono entrambe utili. Quindi questo. Come terapeuta, allora, a me piace tantissimo lavorare in gruppo, potessi fare solo il gruppo di terapia, ma non è possibile. Perché lo trovo uno strumento veramente valido e potente proprio. E vedo anche le persone, i rimandi che mi danno, proprio lo sentono anche loro, no? Quindi dalla resistenza iniziale, dalle paure, poi dopo, le prime sedute e quando iniziano a sentire la fluidità, il movimento del gruppo, gli stimoli, no? E anche il fatto di poter andare molto in profondità e condividere aspetti dolorosi della vita e non sentirsi scemi, matti o cose, perché comunque è il confronto, no? Ok, la vita può essere tragica per tutti, no? E quindi ci sentiamo meno soli, ecco, fondamentalmente, in questo viaggio. È proprio così, è vero, ci si sente meno soli all'interno dei gruppi, sia per la condivisione del problema e dei problemi, ma anche perché poi si diventa come un'unica grande famiglia, no? Nella quale ci si sente a proprio agio e ci si sta bene. E adesso purtroppo dobbiamo salutarci. Ringrazio tutti i nostri ospiti per aver partecipato con noi a questa trasmissione. Quindi ci risentiremo la settimana prossima. Ringraziamo il progetto Time to Care, Arci Toscana, Note al Vento e Radiograd, che ci hanno permesso di registrare queste puntate che è tutto perfetto. E a risentirci, a presto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?